Sono molto contento di essere qua al Leoncavallo per questa edizione di La Terra Trema. Sapete che questa è un po', come dire, l'ultima creatura di Luigi Veronelli. Luigi Veronelli 4 anni fa ci lasciava proprio in questa giornata e abbiamo voluto quindi ricordarlo proprio come ultimo suo gesto creativo, quello di accompagnare i ragazzi, i giovani, verso un mondo, quello del mondo del vino, dei viticoltori, che fino ad allora avevano un po' tralasciato, avevano trascurato, lo avevano pensato forse distante dai loro bisogni, dalle loro necessità. Luigi Veronelli ha invece fatto capire anche ai ragazzi, ai giovani, che il mondo del vino è un mondo molto vicino ai loro bisogni, alle loro esigenze, al loro modo di intendere la vita, perché è un mondo nel quale l'uomo si confronta direttamente con la natura, direttamente con la terra, direttamente con il clima. È quindi un modo di rapportarsi alla natura in un modo del tutto naturale, privo di condizionamenti, privo di infrastrutture che possono in qualche modo condizionare le nostre scelte. È un mestiere difficile, naturalmente, perché la natura spesse volte, che noi riteniamo quasi sempre amica, quasi sempre una nostra compagna, a volte ci crea invece qualche difficoltà. Ecco, Veronelli diceva che lui non avrebbe mai fatto il vignaiolo perché non avrebbe mai sopportato che il tempo, una pioggia, un temporale, una grandinata, gli potesse rovinare il lavoro di una stagione. In effetti è così. Il rapporto che si ha con la terra e con il clima purtroppo crea anche questi inconvenienti, ma d'altra parte questo è un gesto indispensabile per il mondo del vino, perché il vino, ricordiamo che lui l'ha sempre considerato come un elemento al di sopra della nostra corporalità, della nostra terrenità, diciamo così. È un po' un recupero di un concetto greco del vino. Veronelli ha scritto che il vino è il canto della terra verso il cielo. Ecco, i greci pensavano invece che il vino fosse qualche cosa che poteva sollevare, poteva elevare i comuni mortali verso l'Olimpo, quindi verso le divinità. Quindi un modo per elevare la propria mente, elevare il proprio stato, il proprio essere. Ecco, proprio in questa convinzione vogliamo proprio cercare di affrontare il tema del vino in questo modo, farci capire in qualche modo come quello che noi troviamo in un bicchiere sia poi il frutto di una serie di piccoli elementi, di piccoli ma nel loro insieme poi diventa grandissimo, perché diventa un elemento completo, totale, che avvolge tutta la nostra vita, che si ritraduce poi in un bicchiere con determinate caratteristiche, con dei colori, con dei profumi, con dei sapori del tutto particolari, del tutto diversi. Pensate che la vite, l'uva, è forse la pianta più studiata al mondo, ma in nessun'altra specie arborea l'uomo si è impegnato così tanto a capirla, ad affrontarla, a studiarla, perché effettivamente quello che l'uva ci dà e che viene poi trasformata in vino è qualcosa di straordinario. Pensate a quante piccole differenze possiamo trovare in tanti vini, tante varietà, tante cose, tanti profumi, tante sfumature diverse, eppure vengono tutte da un frutto, viene lavorato più o meno nello stesso modo, però si arricchisce, si caratterizza dalla terra nel quale cresce la pianta, dal clima che l'ha fatta maturare e da come l'uomo ha poi interpretato questo frutto, come l'ha raccolto, quando l'ha raccolto e poi come l'ha trattato in cantina, cosa ci ha fatto, come l'ha trattato, come l'ha invecchiato, dove l'ha messo. Ecco, tutti elementi, tutti piccoli fattori che possono alla fine trasformare tantissimo il nostro prodotto. E questo soltanto con l'uva e col vino ci riesce, con tutti gli altri elementi sì, noi possiamo avere una buona marmellata di albicocche, una più o meno buona, ma non abbiamo delle differenze così sostanziali, così importanti per determinare due modi diversi di intendere la coltivazione. Il vino è proprio quello che accentua, che mette in evidenza quello che è effettivamente l'anima, lo spirito di un viticoltore e della sua terra, lo stretto rapporto quindi che c'è tra la natura, l'uomo e il vino. Abbiamo scelto quindi oggi quattro vini di quattro vignaioli che lui ha amato. Ecco, anche il termine vignaiolo forse va chiarito proprio agli occhi di Veronelli. Il vignaiolo per Veronelli era proprio l'uomo che viveva della sua vigna, che la coltivava, che quindi aveva questo strettissimo rapporto con la terra e che vinificava la sua uva e la vendeva. Cioè tutto il ciclo continuo, il ciclo completo, quindi dalla progettazione già del vigneto fino poi alla commercializzazione del suo vino. Perché poi anche un compito del vignaiolo è d'inverno, quando ho finito tutti i lavori di campagna e ha sistemato i lavori di cantina, era quello di prendere le sue bottiglie e cominciare a viaggiare e portare il suo vino alle persone, a farlo conoscere. Andava nei ristoranti, nelle enoteche con la sua bottiglia e cominciava a farlo assaggiare, a parlare con l'enoteca, con il ristoratore, per cercare di far capire qual era il suo mondo, qual era il suo vino, cosa pensava di aver messo all'interno di questa bottiglia. E questo era un lavoro molto importante, perché era l'unico mezzo per farsi conoscere, per farsi vedere. Certo, quando lui poi trovava qualche vino che gli sapeva raccontare qualcosa, qualche vino che riusciva in qualche modo ad emozionarlo, allora lui ne parlava, scriveva, invitava proprio tutti ad andare a trovare il vignaiolo, era il primo che dava l'indirizzo dei vignaioli: andate a trovarli, andate a comprare il loro vino, perché è veramente l'essenza della terra, l'essenza della vita. E quindi iniziava così a far conoscere i suoi vignaioli, i suoi amici, con i quali appunto avrà un rapporto continuo per tutta la vita. La tavola di Veronelli aveva sempre qualche vignaiolo, qualcuno che andava a trovarlo per chiedergli un consiglio, per ringraziarlo di qualche cosa, per avere in qualche modo qualche conforto, qualche idea o qualche suggerimento. C'era quindi sempre questo strettissimo rapporto con Veronelli e il vignaiolo. Oggi abbiamo con noi appunto quattro vignaioli, quattro degli amici di Veronelli, quelli che lui sentiva effettivamente i suoi vignaioli. Qui ce n'è addirittura uno storico, forse uno dei suoi primi innamoramenti, ed è Pinorato. Pinorato ha, come dire, cominciato a raccontare la sua storia con i suoi bicchieri quasi 40 anni fa. 41 anni fa, ecco, pensate. E quindi ecco, vorrei sentire anche da lui qualche sua impressione. Come ha incontrato Veronelli la prima volta? Cosa vi siete detti? Cosa t'ha detto? Pinorato è un grande vignaiolo, eh?